qualsiasi strategia che a mio modo di vedere venga adottata dal governo, specialmente a livello centrale, pur declinato con ovviamente le necessità regionali e locali, io ovviamente lo vedo positivamente, anche perché come epidemiologo, data la situazione attuale, penso che dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo per cercare di contenere questa problematica. Problematica di natura pandemica che ha sicuramente, diciamo, un effetto per quello che riguarda la parte clinica, la parte di danno che essa provoca, insomma, che il virus riesce a provocare sull'organismo, ma vi è più, quindi non tanto e non solo, ma anche la criticità che questo può causare sul sovraccarico dei nostri servizi sanitari, che probabilmente è, a mio modo di vedere, una delle criticità più forti legate a questa situazione pandemica. Vedo comunque che si sta andando, secondo me, a mio modo di vedere, giustamente, verso grosse, diciamo, restrizioni, specialmente, insomma, in zone nelle quali, se posso usare, diciamo, un termine un po' forte, a sto punto bisogna usarlo, la pandemia è veramente fuori controllo. Avere un RT come si ha in alcune zone di 2 vuol dire, come ha detto giustamente anche la cancelliera Merkel recentemente, chiunque abbia un minimo di conoscenza relativamente a com'è una funzione esponenziale ne è molto preoccupato. Ecco, ovviamente, come dire, le ragioni delle autorità politiche sono per certi aspetti anche diverse rispetto alle sole sanità. Lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato la necessità di equilibrare gli effetti tra gli effetti sanitari e quelli all'economia, ma ovviamente parlando con un epidemiologo io non le chiederò di economia, le chiedo appunto per l'aspetto sanitario. Siccome è una pandemia globale, abbiamo esempi di altri scenari in giro per il mondo di strategie particolarmente efficaci e vincenti? Diciamo che una strategia simile a quella adottata dal governo attualmente era stata adottata, poi con misure più restrittive, 2 settimane e mezzo fa più o meno dal governo Boris Johnson, quindi stiamo parlando della Gran Bretagna. Ha dato risultati contrastanti e ha comunque richiesto delle misure correttive, e in particolare per correttive intendo più stringenti, comunque sulla limitazione, diciamo, dei singoli, indipendentemente, come dire, dalle regioni, a seconda che se fossero. Non si sta parlando di colore politico, ma si sta parlando soltanto di colore dato da RT, che se fossero appunto verdi, gialle o rosse. Detto questo, le strategie migliori. La problematica, diciamo, relata a questa pandemia è la capacità di poterla controllare, perché indipendentemente da quello che anche dicevo prima, cioè la gravità della patologia in sé, sulla quale si potrebbe discutere, c'è soprattutto appunto una gravità data dal fatto che quando questa pandemia è fuori controllo, come sta succedendo adesso in moltissime aree d'Italia, questo causa appunto il sovraccarico dei sistemi. Bisognerebbe, ecco, ma tra virgolette oramai è un po' troppo tardi, perché la macchina è già avviata, la nave c'è già l'abbrivio e quindi per essere frenata è inutile guardare il dato di adesso, ma bisognerebbe guardare il dato di adesso in prospettiva, no? È come quando qualcuno sta andando ai 130 in autostrada e sa benissimo che non può frenare entro un metro, ma ha bisogno di un certo tempo per frenare. Non bisognerebbe arrivare in questa situazione qui, bisognerebbe cercare di frenare prima, ma questo ovviamente causa questa discrasia che lei ha detto prima tra quelle che sono le autorità sanitarie e quelle che sono le autorità politiche, le quali giustamente devono anche tenere conto di altre esigenze, non solo di natura sanitaria. Detto questo, ovviamente il mio punto è cercare di non arrivare qui, e questo ovviamente prevedrebbe di adottare misure stringenti anche laddove ancora non si vedano questi grossi effetti. Queste sono alcune delle tecniche cosiddette non pharmaceutical intervention, cioè interventi non farmacologici, in cui si cerca con un qualcosa di, diciamo, di precedente all'adozione di, per esempio, un farmaco, di un vaccino, di cercare di contenere la diffusione della pandemia. Ed è la famosa strategia, anche molto citata dal professor Crisanti, delle 3T, fare il testing, il tracement, di fare molti test per valutare la diffusione, di fare il tracing dei contatti, di avere un treatment efficace e di essere soprattutto timely, arrivare in tempo a fare queste cose e quindi anche a prendere le opportune contromisure. Esempi che vengono dal di fuori, ci sono alcuni esempi virtuosi, come ad esempio Singapore, la Corea del Sud,